E purtroppo stasera la puntata solita Note, Cose e Città non ci può essere, quindi anticipo la puntata dedicata alla Nigeria di Semilla Musica dal Mondo, alla musica nigeriana. E inizio introducendo un pochino il paese, che si affaccia sull'Oceano Atlantico, nel Golfo di Guinea, a ovest del Benin e di tutti quei paesi che ho fatto di cui ho parlato nelle puntate precedenti. E quindi siamo partiti dal Senegal, poi siamo scesi giù in Guinea, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, e adesso siamo in Nigeria. E è lo stato più popoloso del continente africano, ha subito anche esso la tratta degli schiavi, quelli destinati alle Americhe in modo particolare, ed è stata una colonia inglese dal 1914 fino alla completa indipendenza nel 1960. E la lingua infatti di comunicazione utilizzata tra le persone di tutte le etnie diverse è l'inglese, o una versione africanizzata comunemente detta il Pidgin English, che sentiremo in alcune delle canzoni che vi proporrò. E ovviamente c'è anche le lingue originarie nigeriane, sono le più usate, sono la Hausa, lo Yoruba, l'Igbo e delle relative popoli. Dal 67 al 70 è stato teatro di una sanguinosa guerra civile per la secessione della regione del Biafra, e in più anche ancora adesso le compagnie Eni, Shell, Total, Chevron, ExxonMobil operano nel paese tramite una joint venture e sono responsabili, con la copertura del governo nazionale, di gravi e ripetuti abusi perpetrati sulla popolazione civile e di una disastrosa situazione ambientale causata proprio dalle fuoriuscite di petrolio dagli oleodotti, che contaminano le falde acquifere, le foreste, i campi coltivati e tutto quanto. E nel paese è anche praticato il gas flaring, cioè un processo molto inquinante per l'atmosfera, in cui il gas associato alla produzione di petrolio, dove quando non è facilmente commerciabile, viene bruciato liberando tanta anidride carbonica. E dopo aver detto tutte queste cose tremende che avvengono in questo paese a discapito della popolazione, parliamo della musica. E inizio subito con Michael Batumbe Olatunji, detto Baba, che è stato un percussionista e un musicista nigeriano, noto per aver portato in Occidente la musica tradizionale nigeriana, per aver registrato, fra l'altro, il primo album di musica africana in stereofonia. E il brano si chiama Oin Momo Ada Odo, Oin Momo Odo, Sweet as Honeybee, dolce come il miele. Thank you. Il prossimo brano che andiamo a ascoltare è dei Twin 77, che è il nome d'arte di un pittore, scultore, musicista nigeriano influenzato dalla mitologia e dalla cultura tradizionale Yoruba. Il brano si chiama Komalobe. Komalo, komalo. Komalo, komalo. King Sunny Ade è un cantante musicista tra i pionieri della world music. Il suo genere è il juju, che deriva dall'uso delle percussioni del popolo Yoruba. Il brano si chiama Mabebe Fori Jack. Tell lo hace la guante upe, ay lo se fomi upe, y ya lo se foque dile. Celestino Ukwu era un musicista del popolo Igbo e ha fatto musica High Life dagli anni 60 e 70. Il brano che stiamo per ascoltare è Grade by Grade. Proper. No, they know better where this world do for them. Till him sick small. Some things say them life, na him hard pass. But when them look round, them go see people where them better pass. This world not great by grade. Any grade you find yourself. Things ain't I was. Look round, you go see people where you better pass. When anything happen to you, just get small patience. For when night come pass, daytime go come. For when rain fall finish, sun go come shine. For when night come pass, daytime go come. For when rain fall finish, sun go come shine. Make you go walk around small. You go see, say, this world hard for no. You go see some people, they ride for motor, and some they work up for food. Some get plenty to chop, so they them go throw away the one where them chop remain. You see some where no see to chop at all at all. Some they work for farm for heavy sun, and some they work for office. Some they sell for market, some they buy, some they beg for street. You go see some they sick, so they hospital go come turn them house. Some they work hard to get job. Sometime you fit see that one where they ride for motor, come they work out for food. Say say can no day again. Ali Chukwuma era un musicista high life nigeriano che ha fatto la musica negli anni 70-80. Era molto amato, ho letto sui social, ma non ho trovato molte informazioni. L'unica cosa che ho trovato è una conversazione fra persone che raccontano che è stato adottato e quando ha scoperto la sua vera origine è morto proprio quando stava per tornare nel suo paese Abo, nel sud della Nigeria. La canzone che metto si chiama Oko Family Special. Thank you. anche Easy Kabaka faceva musica High Life. Questo è l'ultimo brano High Life che metto stasera, e la sua musica era cioè lui era del vasto popolo, anche lui degli Yoruba, e il brano che vi metto si chiama Belena. Uno dei generi musicali pop più noti, di origini culturali nigeriane e ghanesi, è proprio l'afrobeat, che abbiamo ascoltato anche nella scorsa puntata dedicata anche al Ghana. E importanti esponenti sono stati il musicista Fela Kuti e il batterista Tony Allen, che ascolteremo in seguito. Incomincio però con uno dei primi, che è stato Orlando Julius, e autore di uno dei dischi Super Afro Soul del 1966, che ha segnato il primo punto d'incontro tra la musica nera africana e quella afroamericana statunitense. Basti pensare che il trombettista della prima band di Orlando di Julius era Fela Kuti, e nella sua illustre carriera Julius ha suonato con numerosi musicisti, tra cui Louis Armstrong. E quindi ascoltiamo il brano di Orlando Julius, In the Middle. si sta scaldando qui il mixer con l'afrofunk. Fela Anikulapu Kuti, o semplicemente Fela Kuti, è stato un cantante, compositore e anche attivista per i diritti umani, inventore del genere musicale l'afrobeat, uno degli inventori, è considerato fra i più influenti artisti africani del XX secolo. Nei primi anni 60 ha studiato tromba a Londra e molti musicisti di origine ha conosciuto lì molti musicisti di origine africana come il chitarrista ghanese Ebo Taylor, e poi è tornato in Nigeria dove negli anni 70 assieme al suo gruppo musicale rinominato Africa 70 fondò la Repubblica di Calacuta, che era una comune e anche un posto dove si registrava musica. E la cultura africana in cui credeva metteva anche la poligamia, ovviamente unidirezionale, cioè solo tante mogli con un unico uomo, e la stessa Repubblica di Calacuta era stata fondata come un luogo in cui la poligamia era in generale consentita, e per questo Fela sposò 27 donne, molte delle quali erano sue coristi e danzatrici, e poco dopo le ha divorziate con tutte, dichiarando che nessun uomo può vantare dei diritti sulle donne. Però nonostante questo, nei suoi testi alcuni testi si possono considerare sessisti, e in alcuni brani descrive le donne come delle bambinaie, questo non ci piace. Comunque ho deciso di mettere la sua musica perché è un personaggio importante per la musica africana. E nel 75 uscì, anche per la sua storia comunque di attivista, nel 75 uscì l'album Zombie, del quale paragonava la polizia e l'esercito nigeriani a degli zombie privi di volontà, e il disco ebbe un enorme successo in Nigeria e provocò la violenta reazione del governo, che attaccò la comune che vi dicevo prima con più di 1000 soldati, incendiando gli studi, distruggendo le strutture, uccidendo numerose persone, tra cui la madre di Fela, che venne gettata fuori dalla finestra morendo qualche giorno dopo. E poi negli anni 90 ha fatto tour nel mondo, nel 97 è morto. Poi si scoprì che era malato di AIDS, e si calcola che al suo funerale hanno preso parte più di 1 milione di persone. Vi metto un brano che si chiama Palm Wine Sound. Tony Allen è stato un batterista e cantante nigeriano e come batterista collabora proprio con il gruppo Africa 70 di cui vi parlavo prima, insieme a Fela Kuti. Negli anni 80 si trasferì a Londra e poi a Parigi e nella sua carriera ha collaborato con King Sunny Ade, che abbiamo ascoltato prima, Manu Dibango, Paul Simon, tantissimi musicisti, anche i francesi Air, che fanno musica lounge. È morto nel 2020. Il brano che vi metto è Léon Po. Léon Po. Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia, musica del mondo. Stasera ho preso il posto di Note Cose Città, che non sono potuti venire, e ora vi faccio ascoltare le Lee Jadu Sister, che erano due gemelle, Taiwo e Keinde Lee Jadu, che hanno suonato dalla metà degli anni 60 agli anni 80, riscuotendo grande successo in Nigeria. E ascoltiamo Not Any Longer. Thank you. colonial mentality è la mentalità, diciamo, da colonizzato o da colonia, è la, diciamo, è quell'attitudine di un gruppo etnico, di una popolazione, di sentirsi inferiori a causa della colonizzazione e del razzismo che hanno subito. E di questo parla questo brano di Fela Kuti, che si chiama proprio Colonial Mentality, che è stato il primo brano afro-funk che ho conosciuto da giovanissimo e di cui mi sono innamorato. Il brano è lunghissimo, durerà 15 minuti, io l'ho dovuto purtroppo accorciare nella parte centrale, inizia per tipo 10 minuti è musicale, poi inizia la voce e il testo dopo 10 minuti, io l'ho accorciato. Now make you hear me now. a ransom, we make it sure. It's a Williams, we make it sure. It's a Aliyah, we make it sure. It's a Mohammed, we make it sure. It's a Anglican, we make it sure. It's a Bishop, we make it sure. It's a Catholic, we make it sure. It's a Muslim, we make it sure. The Africa, we devil make it sure. E ora vi metto un altro brano di Tony Allen e Parapo. Le sorelle Lijadu, le gemelle di cui vi ho parlato prima, facevano generalmente funk, ma c'è anche un brano che è stato uno dei primi brani reggae africani del, penso proprio della fine degli anni 60, e si chiamava Bobby. So 'cause this day I met you, Robby darling, that I know the joy of being loved. Why I know that you could love me, that she sent you to me, and only me. Don't you leave me, darling, no, no, don't you make me cry, oh yeah, 'cause I'll be sad. Believe me, my robot, I love you so, and I'll make you happy. Oh, I'll make you happy. I'll make you happy. Twas the day I met you, Robby darling, that I know the joy of being loved. Why I know that you could love me, that she sent you to me, and only me. Don't you leave me, darling, no, no, don't you make me cry, oh yeah, 'cause I'll be sad. Believe me, my robot, I love you so, and I'll make you happy. Oh, I'll make you happy. I'll make you happy. Per chiudere metto un brano di Babatunji Olatunji, che è il percussionista e musicista con cui ho iniziato la puntata, e si chiama Akiwokwo il brano che vi faccio ascoltare. We'll be right back. E la puntata di Note e Cose Città finisce adesso. E mi dicono appunto che sono riusciti a mettere Note e Cose Città alla, una replica che faccio partire subito, e ci vediamo, ci sentiamo martedì prossimo, e sicuramente non all'orario in cui sono andato in onda oggi, cioè martedì prossimo farò alle 9:30. Quindi ecco una replica di Note e Cose Città. Ciao.